Investire informati. Salutiamo e ringraziamo per essere ritornata a trovarci Monica Defend, strategist di Amundi. Benvenuta, grazie. Grazie, grazie. Buongiorno, bentrovati. Monica ci racconta sempre un sacco di cose divertenti perché e ci diverte, perché ci fa toccare con mano anche le modalità con cui chi fa il suo lavoro costruisce le previsioni. Va spesso a Washington a seguire le riunioni del Fondo Monetario Internazionale. Ci è capitato anche che ci raccontassi il dietro le quinte di qualche certi retroscena eventi. Di sì, otto. Sì, esatto, e quindi è molto interessante anche il suo punto di vista. Gli ascoltatori possono intervenire oggi, cosa dici? Ma certo, perché no? Anzi, li sollecitiamo a intervenire se avete domande, richieste, dubbi di qualsiasi tipo, ovviamente possibilmente collegati alle questioni dei mercati finanziari. Il numero è sempre lo stesso: 800240024. SMS e WhatsApp è lo stesso che vi ho citato prima per i biglietti per il forum Gamma Donna, ma ve lo ripeto: 349-238-6666. Per i biglietti di Gamma Donna fino alle 12, poi basta, poi chiudiamo questa finestra. Oh, naturalmente abbiamo anche noi una casella postale di posta elettronica, due di denari, attenzione che è scritto a lettera, due di denari, @radio24.it. Salutiamo anche gli amici di Facebook che ci seguono su Facebook. Come infatti, avete visto, la coppia si è ricomposta. Condividendo testè sulla mia pagina privata la diretta, appunto, i live di Facebook, così almeno mi possono seguire anche i miei amici, quelli personali, perché non vedono l'ora di vedermi anche su Facebook. Allora, Monica Defende, gli uffici studi di banche, SGR, istituzioni finanziarie stanno a questo punto direi completando i rapporti che rilasceranno entro qualche settimana con le previsioni per il 2018. Allora, quello delle previsioni è un esercizio che, come dire, non tutti fanno più molto volentieri, perché effettivamente negli ultimi anni ci sono state diverse occasioni in cui eventi improvvisi hanno completamente ribaltato ogni scenario. Ci ricordiamo assolutamente i due più importanti del 2016, Brexit e l'elezione di Trump. È cambiato il vostro modo di formulare le previsioni e il modo di analizzare i fattori macroeconomici? Grazie mille per la domanda, anche perché va a colpire proprio quello che è il mio DNA. Io sono una quantitativa, per cui ho cominciato la mia carriera su modelli di previsione e continuo a farlo con un diverso utilizzo. Per me un modello di previsione è uno strumento per andare a leggere e a capire meglio la realtà, quindi i modelli vanno presi per quello che sono, ti devono servire per interpretare. Come sono cambiati le modalità con cui noi li utilizziamo? Per esempio, anziché andare a fare una previsione puntuale, quindi mi aspetto che il PIL cresca del 2%, abbiamo cominciato a fare delle ipotesi di scenario. Quindi, se succede che Trump, un anno fa, ne stavamo parlando prima, verrà eletto, potrà succedere questo, questo e quest'altro, e quindi il PIL potrà crescere dal 2,3 al 2,7, se non dovesse essere eletto succederà così, quindi è una, se vogliamo, concatenare gli eventi e cercare di legare a questi eventi quello che può essere una relazione economica. Quello che sta succedendo adesso, per esempio, è di trovarsi in un contesto davvero senza precedenti, perché è molto difficile, anzi non si ritrova nella storia un momento in cui, e parlo dell'evidenza degli ultimi 50-70 anni, non proprio periodi piccoli, un livello di crescita così buono, un mercato del lavoro che sta migliorando anche se solo sotto determinati aspetti, e un'inflazione che di fatto non c'è. Quindi questo è il vero problema che le banche centrali per prime stanno cercando di affrontare, perché c'è un qualcosa che è cambiato nelle relazioni economiche che non riusciamo a tradurre con i modelli di previsione. E mi riferisco per esempio alla relazione tra inflazione e produttività. Adesso quello che ci aspetta nel 2018, la prima cosa che noi abbiamo fatto è andiamo a vedere che cosa è successo nella storia. E nella storia, per esempio, abbiamo visto che in un contesto come questo qui, in cui la crescita sta migliorando sotto parecchi aspetti, ma l'inflazione non c'è e le banche centrali stanno cercando di modulare, capire in che modo perché vorrebbero ripartire con la politica monetaria. Ma qual è il problema? Che se lo facessero troppo in fretta, il mercato obbligazionario potrebbe davvero crollare. Certo. E se crolla il mercato obbligazionario, potrebbe portarsi dietro anche quello azionario. In un contesto in cui le obbligazioni non solo mettono a rischio la loro parte capitale, ma anche la parte di cedola. oggi rispetto al passato le cedole, i coupon sono molto molto bassi e non ti offrono quella possibilità di calmierare le perdite che tu avresti in conto capitale. Quindi io non ho la sfera magica purtroppo, ma l'aiuto dei modelli matematici econometrici ci aiuta davvero a cercare di attraversare questo corridoio buio con un lanternino, piuttosto che andare completamente a occhi chiusi. Io così li utilizzo e così invito a utilizzare quelle che sono le previsioni. Da quello che lei dice sembra di capire che siamo di fronte a una serie di eventi che si è presentata raramente, diciamo, nell'economia moderna, insomma, negli ultimi 100 o 150 anni. E quindi è anche più difficile per voi individuare quali sono gli elementi chiave. Pochissimi giorni fa, proprio questa settimana, il Centro Studi di Confindustria ha segnalato che sì, la ripresa c'è, ma i livelli veri di ripresa li vedremo nel 2021, che però, come dire, sembra lontanissimo visto da questa fine 2017. Quindi mi immagino che un po' siate tutti coinvolti in questa ricerca di comprendere capire quali sono le criticità, ad esempio l'occupazione che, o i consumi interni che non riprendono a sufficienza, mi immagino siano delle criticità che voi guardate. Un'altra cosa che è cambiata tantissimo rispetto a quando ho cominciato a lavorare io purtroppo tanti tanti anni fa, ma è non dica così. L'orizzonte previsivo. Ha cominciato da minorenne, quindi lei. Io mi ricordo che davvero noi facevamo previsioni 3-5 anni, adesso ma anche per quelli che sono le previsioni macroeconomiche, quindi non solo quelle dei mercati finanziari che generalmente hanno frequenze più elevate, ma andare a capire cosa succede tra 2 anni è già un bel problema, perché ci sono da qua a 2 anni dei cambiamenti importanti, non so, anche la stessa la stessa alternanza alla Banca Centrale Europea. Ma potrebbe avere dei cambiamenti fortissimi su quella che è la politica monetaria, le conseguenze in termini di rischio e rendimento delle classi di attività e la manipolazione che è stata fatta per fortuna fino adesso sui mercati. Sono eventi importanti, per cui andare a dire tra 2 anni, 2020, che cosa succede? Mamma mia. Le vorrei buttare lì un altro evento incognito, mi permetti, Deborah? La Brexit. No, perché tra l'altro la Bank of England ha appena effettuato il suo primo rialzo dei tassi. Allora, per la prima volta da 10 anni. Tra l'altro. E quindi abbiamo poi questa terra assolutamente incognita della Brexit, di cui ancora non sappiamo nulla. Contiamo di capirci qualcosa, nel senso di capire come avverrà questo distacco particolarmente complicato del Regno Unito dall'Unione Europea. Speriamo entro la fine di quest'anno, il che non è detto. Voi di fronte a questo evento come vi regolate? L'abbiamo anche in questo caso diviso in tanti piccoli pezzi, quindi l'aspetto più politico, quindi quello delle relazioni tra l'Eurozona e l'Inghilterra, l'aspetto economico, quindi andare a capire in che modo la crescita di questo paese può venire impattata. Secondo noi avremo di fronte un indebolimento strutturale del Regno Unito. In qualsiasi forma questa Brexit possa prendere forma, perché anche la svalutazione della sterlina non ha aiutato, non aiuterà a lungo. Certo, proprio questa incertezza non permette alle aziende di investire, per esempio, a partire dalle aziende nel settore finanziario che tanto contano e tanto pesano nell'economia inglese. E poi c'è l'aspetto dei mercati finanziari, ma anche lì distinguiamo tra quella che è la valuta, che fino a un certo punto ha potuto aiutare, quello che è l'andamento del mercato azionario e quello che è l'andamento del mercato obbligazionario. Quindi così noi cerchiamo di individuare e isolare i singoli problemi e andare a capire quali sono le variabili sottostanti, le cosiddette variabili sentinella, che ci possono aiutare a capire qual è il passo successivo. Le variabili sentinella, ti è piaciuto questo concetto? Me lo sono anche segnato. Benissimo. Tu sai che io quando facciamo investire in formati vengo sempre col blocco degli appunti e prendo appunti perché c'è sempre da imparare. Certo, Monica, tra l'altro, come invece a me capita di fare quando lui ci intrattiene su questioni di puro carattere fiscale nei quali io navigo appunto con grande difficoltà. Ci sono già alcune telefonate, osservazioni degli ascoltatori. Devo dire che avendo lanciato il tema petrolio molti hanno proposto posto delle domande proprio su questo argomento e adesso sicuramente li ascolteremo. Volevo però, prima della pausa che arriva fra 5 minuti, prima di aprire i microfoni ai nostri ascoltatori, ritornare sugli scenari macroeconomici, perché ovviamente noi in particolar modo in Italia percepiamo in realtà questo tema della ripresa non al 100%, no? Perché ci sono ancora molte difficoltà per quello che riguarda il mercato del lavoro e tanti altri aspetti che ci pesano anche emotivamente. Allora, quando parliamo di una crescita che ha ripreso a marciare in maniera significativa in molte parti del mondo, ci può dare una fotografia un po' più completa? Quali sono gli elementi che lei trova particolarmente apprezzabili e sui quali possiamo insistere anche per dare un quadro positivo a chi ci ascolta, e in modo tale da incoraggiarlo anche a leggere i giornali un po' più volentieri, mentre tante volte proprio con questa crisi invece che si percepisce che c'è ancora, insomma, le persone non ci credono a quello che raccontiamo e lo contestano spesso. Tanto qualcuno ci dice addirittura: perché continuate ad enfatizzare il tema dell'inflazione come un elemento positivo? Per noi non è così. Perché dobbiamo guardarla in positivo invece la situazione? Defende. Ma intanto perché bisogna essere degli ottimisti, se non ci va mai bene nulla. No, però devo dire che nel 2017, al di là di tutto, si sono allineati in maniera positiva una serie di fattori. Innanzitutto le banche centrali, che rimangono comunque, sono rimaste e rimarranno molto importanti anche nell'anno a venire. Sono di fatto il motivo per cui i mercati finanziari hanno continuato a crescere. Quindi la vera preoccupazione è: cosa succede quando le banche centrali cominceranno a togliere un po' il piede dall'acceleratore? A questo si è unito una ripresa del commercio mondiale, e quindi tutti i paesi hanno cominciato ad andare bene in maniera sincrona. Non è più solo l'America che è migliorata, non sono più solo i paesi emergenti e la Cina, ma ci si è messa anche Eurozona. La cosa importante in questo periodo era riuscire ad approfittare di questa bonanza per portare avanti le riforme strutturali e la politica fiscale, che sono rimaste un po' indietro negli anni passati. Nel 2017 c'è stato un miglioramento, ma bisogna accelerare. Una cosa che stiamo guardando con favore è come si sta sviluppando la relazione all'interno di Eurozona con la Francia e la Germania. Ieri il ministro dell'economia e finanza francese ha proposto un nuovo piano con dei passi ben scanditi per andare a capire dove andremo a finire, e come spesso ci siamo detti, l'unione bancaria è davvero la cosa che manca in questo momento. Noi non so quando arriveremo mai all'unione fiscale, perché a questo punto forse più un sogno che altro, ma bisognerebbe davvero avvicinarsi all'unione bancaria, perché comunque quello che è il tallone d'Achille di Eurozona rimangono purtroppo le banche, che sono sì migliorate sotto molti aspetti, però è una cosa che va risolta. Quindi la sono necessità... migliorate, ma adesso la BCE ha rialzato di nuovo i paletti. Sì, c'è stata infatti proprio questo, mi veniva in mente, c'è stata la settimana questa della polemica tra la BCE e lo stesso Parlamento europeo, perché appunto la BCE voleva introdurre già dal 2018 una valutazione dei crediti deteriorati, gli NPL, sì, che sarebbe stata poi particolarmente severa, specialmente per le banche italiane, che forse proprio di questo non hanno bisogno, e quindi adesso c'è una sorta di retromarcia. Lo abbiamo raccontato qui a Radio 24, l'abbiamo scritto sul Sole 24 Ore passo passo, seguendo appunto questa dialettica un pochino preoccupante anche per noi. Ma è importante, perché io non credo che la Banca Centrale Europea sia nella posizione di... non ha abbastanza armi per poter affrontare una crisi, un'ulteriore crisi finanziaria. Cioè, l'ha detto Draghi, mi ricordo quando c'è stato, cos'era, aprile dell'anno scorso, il presidente Draghi fa questo incontro con i cosiddetti watchers, coloro che guardano alla ECB, e lui disse: signori, se dovesse succedere qualcosa, noi non abbiamo più di armi come ce l'avevamo il whatever it takes, non si potrebbe ripetere, esatto, faremo tutto ciò che è necessario, esatto, perché... Per cui è chiaro che lui è estremamente prudente in, in, questo, in questo contesto, certo. Io lo condivido come atteggiamento. Perfetto, per cui tassi di interesse, politica monetaria, inflazione, i temi chiave che dovranno essere monitorati per capire dove andranno i mercati i prossimi mesi e come sarà necessario posizionarsi per gli investitori. Allora, il vostro outlook, che è il consueto termine che viene utilizzato per definire un po' la previsione più importante. Tempo farà? Esatto. Ci dica che tempo farà. Sai che mio figlio, quando chiedono ma la mamma che lavoro fa, le previsioni del tempo. E gli outlook? Grande. No, tra l'altro lo stiamo proprio completando adesso. Ma il nostro outlook vede, da un punto di vista macroeconomico, questa trilogia di condizioni economiche, banche centrali e rischio geopolitico che diventano proprio gli elementi chiave da monitorare da un punto di vista macro, ma anche da un punto di vista finanziario. Il tema che caratterizzerà le nostre scelte è proprio legato alla dinamica dei tassi, sia reali che nominali, che l'inflazione. Perché? Perché a seconda di quello che faranno le banche centrali, quanto normalizzeranno la loro politica monetaria, influenzerà sull'inclinazione delle curve e sul livello dei tassi. Noi non ci possiamo permettere, noi vogliamo dei tassi più alti, ma questo aumento deve essere davvero graduale, perché se il mercato azionario ha continuato a correre fino adesso come è stato, è anche perché da un punto di vista di valutazioni non c'era l'alternativa del reddito fisso. L'altra cosa che abbiamo guardato con piacere è il ciclo degli utili aziendali, perché di fatto è un po' la cartina al tornasole, lo zoccolo duro su cui i mercati azionari si possono permettere di crescere, e davvero gli utili si sono ripresi dappertutto, non solo in America, non solo in Europa, ma anche nei paesi emergenti e addirittura in Giappone, che è sempre un'area un po' critica da poter analizzare. Quindi in questo contesto noi rimaniamo favorevoli a un'esposizione, a una sovraesposizione di azioni verso obbligazioni, ma anziché fare scelte puramente direzionali, quindi mi compro lo Standard & Poor's, no, è meglio andare a guardare all'interno degli indici, quindi diversificare il rischio di portafoglio con cosiddette posizioni relative tra paesi, allora, tra settori. Due di denari. Insomma, c'erano i momenti in cui continuavamo a mandare in onda Astor Piazzolla, il tango argentino, no? A sì, distanza poi di una immagino decina il Sirtaki. Esattamente. Ogni caso di risparmio tradito alla colonna sonora di accompagnamento. Che si anche merita, se mi verrebbe esatto, da dire. Anche se in questo caso ancora non lo possiamo definire tale, per carità, e speriamo di non doverne parlare in questi termini prossimamente, però... Però, ci sono delle situazioni sotto i riflettori un po' delicate, sì, caro perché Mauro. Questo andamento di strumenti a corda, perché non saprei indicare se era un mandolino o un altro strumento. Questo è campo tuo, musica, e qui te la è vedi musica tu. Venezuelana, esatto. E quindi già avete capito dove andiamo a parare. In Venezuela è con il petrolio, perché il petrolio è un po' la notizia di queste settimane. Gli indici che si utilizzano per il petrolio, cioè normalmente il Brent e il WTI, VTI, chiamatelo come volete, insomma. Il greggio del mare del nord è quello invece di riferimento americano. Ecco, sono via via stati guardati con sempre maggiore attenzione. Il petrolio è una di quelle materie prime le cui quotazioni muovono sempre, scaldano sempre gli analisti e chi deve fare le previsioni, e qui la nostra ospite Monica Defend potrà darci delle indicazioni. Allora, Venezuela, petrolio, mercati emergenti. Ci metterei anche Arabia Saudita e tutta la purga di questi giorni che continua, insomma, a piacermi molto questo concetto, ma insomma sono finiti in gattabuia un sacco di ministri, principi, là c'è stato... Diciamo che ci sono degli avvicendamenti abbastanza repentini, delle rottamazioni avremmo esatto. detto. Lì il problema è la corruzione, non il petrolio, detto questo però insomma sono paesi che sono largamente esposti anche in questo settore, direi. Allora, vogliamo fare un po' d'ordine. Dove vuoi cominciare, Deborah? Cominciamo dal Venezuela, perché si sta parlando di una ristrutturazione del debito per questo paese. Ora voi direte, tanto lontano da noi, che cosa ci interessa? Le lezioni degli ultimi anni ci hanno appunto insegnato che a volte anche fatti che si consumano molto distanti da noi ce li ritroviamo diretti nel nostro portafoglio, nel nostro risparmio, per cui anche il possibile potenziale default di Caracas potrebbe ripercuotersi anche tra i nostri investimenti. In realtà, come scrive Roberto Darin stamattina sul Sole 24 Ore, sulle pagine di Finanza, la ristrutturazione potrebbe riguardare a breve una scadenza molto contenuta da 80 milioni di euro di dollari, quindi non parliamo di scadenze da miliardi, perché una ne è stata onorata proprio pochi giorni fa. Detto questo, è un tema del quale si parla ormai da settimane. Monica Defende ci aiuta un po' a fare un po' di chiarezza in questa situazione venezuelana. Potrebbe avere delle ripercussioni anche tra di noi, ci dobbiamo spaventare secondo lei, e da dove arriva poi più che altro questa crisi? Il tema del Venezuela ha una caratteristica politica, quindi c'è un presidente Maduro e parte del rumore intorno alla Venezuela è proprio dovuto alla sua volontà di ricandidarsi e rafforzare il suo potere, quindi è una, se vogliamo, una dimensione politica domestica. C'è una dimensione politica internazionale, perché in Venezuela ci sono interessi economici di molti paesi importanti, in particolare l'America, la Russia e la Cina, che per motivi diversi... Un trittico direi di assoluto peso. Se vogliamo la Cina per i suoi interessi sul petrolio, la Russia più per gli interessi politici legati a Maduro, l'America per i quattrini americani che sono investiti in Venezuela, hanno interessi significativi. E poi un paese che comunque è stato al buio, per esempio, del Fondo Monetario per anni. Io mi ricordo, sono davvero 4-5 anni che vediamo dei rappresentanti del Venezuela venire al Fondo Monetario. Non hanno potuto avere nessun tipo di supporto finora dal Fondo Monetario, perché non avendo visibilità, giustamente il Fondo Monetario non poteva intervenire. Pare che adesso ci stiano ripensando, ma sono 5 anni che riportano una situazione economico-politica piuttosto drammatica, devo dire la verità. Perché siamo arrivati a dover parlare di obbligazioni che non possono essere onorate a scadenza dal governo? Perché hanno un debito che neanche loro, o forse solo loro, sanno quantificare, e che è diventato insostenibile. Quindi non hanno pagato una volta, ieri un'altra cedola non è stata pagata, quindi si parla di default. Purtroppo il Venezuela fa parte degli indici obbligazionari globali, e quindi è uno di quei paesi che peraltro offriva dei rendimenti estremamente appetibili, ma che andavano comunque ridimensionati e riaggiustati per il rischio, per cui faceva parte dei benchmark, e come tale può essere che qualche investitore anche specializzato fosse investito. È chiaro che una crisi in Venezuela potrebbe, anche se per il momento non è stato così, avere delle ripercussioni su quelle che sono le volatilità e gli indici di prezzo globali. È una situazione che non si sbloccherà immediatamente. Noi abbiamo dai 2 ai 7 anni come idea per una stabilizzazione di quello che è il contesto venezuelano attuale. Le cose continuano a cambiare, per esempio fino a ieri l'America, che ha imposto delle sanzioni, ha imposto il divieto di incontrare le persone che parleranno della ristrutturazione del debito da parte degli americani, proprio sono sulla lista nera. Chi le incontra finisce in galera in America. Adesso, ieri, le cose si sono allentate, per cui gli americani potranno partecipare a questa riunione il 13 di novembre, ma potranno solo ascoltare, non potranno parlare. Quindi è una situazione davvero, davvero abbastanza ingarbugliata. Anche un po' avvincente, devo dire, non molto avvincente per la popolazione venezuelana, che va va al supermercato, non, beh, trova gli scaffali vuoti, c'è un'inflazione al 700%. Ma sì, ma poi avevo letto da qualche parte che oramai non è neanche più conteggiabile, perché effettivamente poi sappiamo che quando l'inflazione supera certi livelli non si riesce più neanche a stimare esattamente quale sia il suo effetto. Ma Deborah, forse prima del traffico abbiamo giusto quel minuto per vestirti da Mike Buongiorno e fare quello che ma ti molto piace volentieri. Tanto fare. Ricordiamo, vogliamo una risposta al nostro numero telefonica in diretta 800 24 00 24. Andiamo con la sigla. E allora, la domanda, il domandone di oggi di Due di Denari riguarda proprio il petrolio. Ve l'avevo detto di stare attenti al petrolio. Vogliamo sapere come si chiamano le diverse tipologie di greggio a cui ci si riferisce quando esprimiamo la quotazione del petrolio. Vi voglio aiutare, sono due. Le abbiamo dette pochi minuti ma fa. Ma io le dico anche tante volte quando faccio i collegamenti con i mercati, sui mercati, quindi... Insomma, se siete stati attenti, se siete ascoltatori affezionati di Deborah e di Due di Denari, non potete sbagliare. 800 24 00 24 per risponderci in diretta. Accettiamo anche pronunce un po' così naif. Ah, sì, esatto. Intercederò per voi presso Deborah. Bene. Allora, sì, abbiamo... Sì, aspetta, tieni lì la manina prima di lanciare la tua rubrica. Volevo solo segnalare a Tiziana che ci scrive al 349-238-6666. Ci chiede un consiglio di acquistare BTP Italia in emissione. Tiziana, noi non possiamo, ci mancherebbe pure dare consigli di investimento così diretti o spregiudicati. Possiamo affrontare in termini generali un argomento, poi voi dovete fare le vostre scelte in base alle vostre necessità, ai vostri piani finanziari e ai vostri obiettivi finanziari. Due di Denari. E vabbè, siamo ritornati alla TV degli anni 80-90. Abbiamo Mauro. Fatto sì un passo un po' di nostalgia, per così anche, dire. Esatto, se non abbiamo chiesto i prezzi di no. dei due. Vogliamo sapere come si chiamano le tipologie di greggio. Insomma, quegli indici che vi dice sempre, quelle sono due paroline che vi dice sempre, peraltro poche neanche lettere, in italiano, esatto, poche lettere. Però ormai. Dai, Deborah li dice sempre, non potete non saperli. Il fatemi petrolio, fare bella figura. Il petrolio del mare del nord è quello di riferimento americano. 800 24 00 24 per segnalarcelo, per rispondere al nostro quizzettone, per guadagnarvi, se vorrete, qualche libro, qualche CD di Mauro. Detto questo, c'era anche una domanda su questo argomento di Marco da Milano. Marco, benvenuto. Pronto? Sì, buongiorno, ci siamo. Salve, sono Marco, chiamo da Milano. Buongiorno. Sì, infatti l'ho appena presentata perché lo avevo visto. Grazie. Ci dica. Allora, io volevo fare una domanda appunto per quel che riguarda il petrolio. Volevo sapere se magari potrebbe essere un investimento senza necessariamente usare una leva o usare magari un semplice ETC, però non un investimento speculativo, cioè bensì a lungo termine. Certo. Cioè, nel senso, magari tenendolo magari anche qualche anno, se poteva dare dei frutti, visto i prezzi che ha avuto negli anni precedenti. Se Monica Defende lo sapesse, sarebbe lei stessa così un po' sdraiata sotto il sole di un paradiso caraibico. Detto ciò, qualche previsione possiamo provare a formularla. Marco ha parlato di ETC, che sono gli ETF che investono sul mercato delle commodities, delle materie prime, quindi indici passivi che replicano in maniera più o meno identica i sottostanti. Monica Defende, allora... Investire in chiave non speculativa ma un po' più strategica in questo mercato. Allora, quando guardiamo al petrolio in un'ottica strategica, quello che bisogna fare è andare ad analizzare le componenti di domanda e offerta. E andando a fare così, quello che potrebbe essere un prezzo di riferimento è intorno ai $55. 55-60, perché questo, più o meno, se vogliamo il range attuale, insomma, esatto, un pochino sopra, esatto, ma... Poi purtroppo sul petrolio come spesso accade, ci sono fenomeni di natura geopolitica, le tensioni con il Venezuela o piuttosto che quelle in Arabia Saudita, che possono innestare una volatilità. La bravura lì capire quanto tempo dura, ma allora diventa un investimento di tipo diverso. E quindi maneggiare con cura, la raccomandazione è sempre quella. Sicuramente tramite ETF, perché quando si investe in materie prime, anche con una materia prima come l'oro, per esempio, si fa attraverso ETF, perché il bene fisico non si può. E poi magari ecco una porzione molto modesta del proprio risparmio, direi. Caro Mauro, poi tra l'altro, la grande passione di Monica Defende sono i paesi emergenti. A quale sta guardando adesso con particolare interesse? Qual è quell'area dove non ci sono tante preoccupazioni politiche, che non hanno ancora magari espresso tutta la loro potenzialità, da guardare in un'ottica di lungo termine, con un po' di pazienza, ma che insomma non sono destinate a dare preoccupazione, ma anzi a garantire un po' di sonno tranquillo al risparmiatore che questa pazienza in un momento in cui la banca centrale americana parla di normalizzazione di politica monetaria, quindi di tassi più alti e di dollaro che si potrebbe comportare di conseguenza, quindi rafforzandosi, i paesi emergenti vanno considerati con ancora più cautela. Quindi se da un lato continuiamo a guardare a paesi all'interno dell'area asiatica, la Cina, l'India, Sud Corea, le Filippine, perché ci sono davvero dei miglioramenti strutturali in termini, questo in particolare per la parte azionaria, dei miglioramenti strutturali che fanno pensare quindi a delle economie che si possono muovere in maniera stabile, quindi portarsi dietro i rendimenti azionari. Allora quelle sono le cose a cui stiamo guardando con principale interesse, ma come dicevo prima, piuttosto che prendersi il rischio direzionale, sono sempre scelte di tipo relativo. Per esempio la Cina, cosa che abbiamo fatto noi, piuttosto che rischiare sulla Cina in maniera esplicita, abbiamo fatto un paniere che andava in sovrappeso della nuova Cina, quindi tutta la Cina, tutti quelle aziende che andranno a beneficiare del miglioramento in termini di riforme strutturali del paese, ma andando ad accorciare la parte più legata a, se vogliamo, le aziende di proprietà dello Stato, e le banche. Quindi sono sempre scelte su panieri, piuttosto che su singoli paesi. Tra l'altro, proprio sul sito del Sole 24 Ore questa mattina trovate questa indicazione: la Cina toglierà i limiti del controllo estero sulle società finanziarie, sulle banche, e quindi si potrà salire oltre anche il 51% da parte di società straniere che sono interessate. Sarà effetto della visita del signor Trump? Ma sicuramente sì, non ci sono che dubbi. Dici, infatti. Io ho guardato prevalentemente agli abiti di Melania, che anche in questa circostanza sono stati meravigliosi, quindi scusate ma mi sono per un attimo dettaglio distratta. Modaiolo non te lo conoscevo, Deborah. Beh, vabbè, senti, ci sono altre domande interessanti degli ascoltatori, che cosa ne dici? Vabbè, vedo che si sono candidati in tantissimi a rispondere al domandone e allora e quindi diamo loro spazio. Guarda, anche una gentil signora peraltro che telefona da un'area che Monica Defende conosce abbastanza bene. Marisa, benvenuta da Udine. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. La risposta alla nostra domandone? Brent e sì? BTI. Un applauso per Marisa. Molto bene, complimenti signora Marisa, riceverà il premio da parte di Due di Denari e grazie dell'ascolto. La guida MIFID non gliela posso regalare a Marisa. No, vabbè, adesso magari un CD dei Chapter 11. Ma ci stai già volta mandando la sigla, Peter? Ah, ecco perché no, perché la sento in sottofondo, mancano ancora due Peter minuti. Peter Bescapè ha fretta, secondo me deve partire di nuovo per delle vacanze, non so. Infatti. Allora, qualche ultima considerazione con Monica Defende prima di salutarci. Una piccola fotografia sull'Italia ce l'ha da regalarcela, insomma, questo paese che cosa ci racconta? Lo so che lei è appassionata di tutte altre aree, però un po' qua si lavora, si fa radio, è un'area a cui gli investitori possono riprendere a guardare con interesse. L'incertezza politica che abbiamo visto anche esprimersi al peggio in questi giorni, anche questo andamento di questo bot di questa mattina, insomma, che tipo di suggestione le rilascia? Ma è il mio paese, per cui ovviamente sì, io guardo fuori, ma l'Italia rimane comunque un punto di riferimento importante. Per quanto riguarda i mercati e come stanno valutando il rischio politico, penso che oramai si siano abituati i mercati all'instabilità e al dibattito. Le elezioni sono oramai un fatto scontato e non credo che ci sarà da parte dei mercati, chissà che sorpresa. Comunque la borsa italiana è tra i migliori listini all'interno dell'Europa. Importante è stata la valutazione del debito da parte delle società di rating, per cui magari anche sul comparto obbligazionario, in un'ottica di panieri, magari potremmo andarlo a considerare. Siamo positivi.